è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ben ritrovati alla Zanzara. Per intervenire in diretta i numeri sono sempre gli stessi: 800 24 00 24 è il numero verde, sms al 349 238 6666. La Zanzara @ radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2. L'OCSE conferma la ripresa in Europa, l'Italia al top nei paesi virtuosi, anche l'Istat registra un aumento della fiducia degli italiani. Berlusconi, superata la ricchezza della Gran Bretagna. Secondo il ministro Maroni, in Italia verrebbero addestrate cellule di Al-Qaeda pronte a colpire nel nostro paese. Sulla sicurezza dice ci saranno più risorse alle forze dell'ordine. E caccia all'uomo nel Varesotto per l'omicidio di una 82enne trovata sgozzata con le mani mozzate nella sua villetta. Viveva da sola, oscuro il movente. Laura Pausini premiata a Las Vegas per la quarta volta con il Latin Grammy e annuncia: dal 2010 mi ritiro per 2 anni, voglio pensare alla mia famiglia. Allora, ripetendo sempre il numero per intervenire, 800 24 00 24, primo flash, prima polemica, se volete, di serata, della giornata. Io la penso in questo modo: il fatto che Berlusconi abbia nel pluricitato, forse troppo, forse no, non lo so, libro di Bruno Vespa risposto in parte sì, in parte no, poi la si vede, ognuno la vede secondo i propri occhi, alle 10 domande di Repubblica, mi pare un errore madornale, soprattutto perché Berlusconi in questo modo, che sentirete, aveva definito le domande di Repubblica. Quando uno pensa a certe cose, delle 10 domande che Repubblica pose qualche mese fa, perché poi risponde più o meno, anche se non ufficialmente, a Bruno Vespa? Io non rispondo a domande insolenti, offensive e diffamanti. Se queste domande in altro modo me le avesse poste un giornale che non fosse un super partito politico di un editore svizzero con un direttore dichiaratamente evasore fiscale, a un altro giornale, a questi contenuti di domande avrei risposto. Non a quella del fatto che se fossi malato, perché basterebbe vedere le cose che ho fatto in questi 15 mesi di attività governativa per dire che non sono malato, sono Superman. E che è Superman? Cioè, a me Superman mi fa ridere. E questo era Berlusconi il primo di settembre, dunque 2 mesi fa circa. In questo modo parlava delle 10 domande di Repubblica. Adesso perché risponde nel libro di Vespa? Chissà. Ezio Mauro, tra l'altro, Repubblica, è evidente, fa le 10 domande, che in realtà non sono domande, sono anche accuse ben precise, e poi non si accontenta delle semi-risposte, delle risposte complete in alcuni casi, parziali in altri casi, di Berlusconi. Non si accontenterà mai. Ezio Mauro. Le risposte sono fatte in modo che il problema della verità rimane in qualche modo intatto e rimane sul campo, quindi una domanda che potrebbe essere all'origine e alla fine delle 10 domande e delle risposte che Berlusconi ha dato. Una domanda semplice, che non è ideologica, è fattuale. Signor Presidente, qual è la ragione che le impedisce su queste vicende di dire la verità ai suoi concittadini? E dunque la verità, che secondo Repubblica ancora non sarebbe svelata. Poi c'è chi la pensa come ministro Brunetta, cioè chi non ne può più delle 10 domande di Repubblica. Viviamo un momento difficile, però leggere ancora su Repubblica le 10 domande a Berlusconi, con la prima che dice ci precisi i suoi rapporti con Noemi, Letizia, non ne posso più. Non ne posso più, questo pensa Brunetta. Chissà, se lo pensano anche i nostri ascoltatori. Di Pietro, il Di Pietro del giorno, che non poteva mancare naturalmente questa volta, lo saprete tra poco. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come che mi dà spazio. Come mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione. Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? E allora l'abbiamo pizzicato questa volta della serie Non sono mai in televisione a Linea Notte del TG3 ieri notte. mi batterò finché non ci vada, perché io vorrei che il mio paese fosse vista all'esterno come un paese dove al Quirinale ci sono persone che rappresentano l'unità d'Italia, che rappresentano l'orgoglio italiano, ed io non mi sento rappresentato da un modello di governo piduista, fascista, razzista, xenofobo, qual è quello di Berlusconi. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come che mi dà spazio. Come mica, mica si chiamano tutti Fazi. Ma lei è sempre in televisione. Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? E allora, dopo la dipietrata del giorno, ormai non è nemmeno più importante, ripetiamo quello che dice, ma in realtà solamente il fatto che boom, appare improvvisamente in tutte le televisioni dell'etere italiano, andiamo a sentire cosa accade nel Partito Democratico. Quelli che se ne vanno, che sono tre pezzi importanti, diciamo, più o meno. Qualcuno ha detto il sindaco, un titolo su un giornale di oggi, il sindaco, il fondatore, il cofondatore e l'imprenditore. Sentite. Vado via per non tornare più. Bisogna iniziare un tragitto differente, unendo persone diverse che hanno culture diverse. Niente, nemmeno una parola, l'accenno di un saluto. Il progetto su cui mi ero speso per 15 anni del Partito Democratico come una nuova forma politica culturale, io lo ritengo fallito. Punto. Vado, questa volta deciso che vado. Io penso che devo stare al centro in maniera riformista, in maniera moderata, magari un'utopia. Ma perché non me l'hai detto tu? Roberto da Prato, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Senta, io voglio intervenire la questione dei test che non dovrebbero fare i politici. A i test, punto, cosa c'è da dire ancora sui test? Ecco, io a questo punto vorrei fare due domande a lei. Sì. Allora, la prima è: quale motivo lei è contrario a questi test ai politici? L'ho già spiegato mille volte, Roberto, se vuole la spiego per la mille unesima volta. No, se vuole glielo dico ancora, sono tre giorni che ne parliamo. Comunque, sono contrario ai test perché non ha senso, non è un'emergenza del Parlamento, non c'è un'emergenza cocaina in Parlamento, non ha senso pensare che le leggi possano essere fatte sotto l'effetto della cocaina. A questo punto dovremmo fare i test chissà su cosa, perché penso che sia una violazione della privacy, insomma tante cose. La privacy esiste solamente per i politici, per le persone normali non esiste. No, per alcune persone che fanno certi mestieri è importante invece. Non penso che sia importante per i parlamentari. Roberto, ma mi vuole crocifiggere? Già mi hanno crocifisso per tre giorni perché penso non sia importante per i parlamentari. Se facciamo i test ai giovani che assumono lo spinello, perché non... Ma lo facciamo quando guidano. Anche i parlamentari, se guidano, li fermano, li fanno il test. Non è che li esentano in quanto parlamentari. Se un parlamentare, un deputato, prende la macchina, incontra una pattuglia della polizia, in teoria gli fanno il test. Insomma, come a lei, come a me. Hanno sempre avuto problemi. Con la legge perché fumano gli spinelli. Allora, perché diamo problemi a questi giovani che fumano lo spinello e non diamo problemi ai politici che si fanno la cocaina? Ma chi l'ha detto che non se un deputato si imbatte in una storia che ha a che fare con la droga, poi ne paga le conseguenze come qualsiasi cittadino? Non è vero quello che lei sta dicendo? No, è vero, è verissimo, perché finora è sempre stata a quella maniera. Roberto, perché qui stiamo parlando di un'altra cosa. Servono o non servono questi test? Tra l'altro leggo che gli unici test che servono davvero sono quelli alle urine, non quelli con i capelli. Oggi leggevo sui giornali. Qualcun altro dice che essendo volontari è ridicolo, bisognerebbe fare invece dei controlli. Se proprio uno volesse fare dei controlli a sorprese e più continui, e forse appunto con le urine... mi sembra tutta una cosa demagogica quella che sta avvenendo in queste ore. Ma non è una cosa demagogica, perché noi abbiamo a questo punto il governo precedente, si può dire, avevamo di tutto in quel governo lì. Ma che di tutto? Chi avevamo? Mi scusi. Come avevamo? Ora, per tutto il rispetto per Luca Scuria, magari c'era brigatisti, c'era terroristi, ma... Vabbè, Roberto, dobbiamo essere, questa mi sembra francamente brigatisti, terroristi, Luxuria, insomma, lei mette tutto nel calderone. Va bene, grazie. Antonio, provincia di Lecce, buonasera. Antonio, mi sente? Non mi sente. Antonio, invece, da Pistoia, buonasera. Salve, dottor Cruciani, che piacere sentirla. No, io la chiamo perché per dirle che non sono mai stato in disaccordo con lei, e questo cerco di capire, perché sicuramente... c'è un motivo se lei dice che un politico non può fare uso di droga. Sicuramente lei ha una buona spiegazione che purtroppo non sono ancora riuscito a capire. Io dico questo, io ho avuto amici. Guardi, la spiegazione molto, molto banale di questo mio ragionamento è che io non mi voglio accodare, ma non lo faccio per anticonformismo, non mi voglio accodare alla canea montante di quelli che voglio appendere i politici alla forca. Per, a me sembra che dietro questa volontà di fare il test antidroga ai politici ci sia la volontà di impiccare i politici, di portarli alla gogna, eccetera. Il politico non deve essere un Superman, è una persona che serve alle istituzioni, certamente, una persona come tutti noi, con le sue debolezze, con le sue piccolezze qualche volta, con le sue contraddizioni, punto. Se viene beccato un politico in una storia di droga ne paga le conseguenze politiche, ma il test antidroga, a parte appunto la complessità della macchina, e allora poi a che livello bisogna farlo, a livello nazionale, a livello locale, insomma si mette in moto un meccanismo, una macchina. Adesso c'è la grande corsa, non è un po' ipocrita, c'è la grande corsa a fare il test, evidentemente, o non c'è un problema e allora che cosa lo facciamo a fare, oppure è una finta, no? No, io sicuramente, allora ripeto la domanda, forse ho capito male io che loro facciano il test antidroga, questo penso che sia superfluo, però pensare che uno al di fuori del suo lavoro come un politico possa fare uso di droga, questo secondo me non l'accetto. Io ho avuto amici che si sono drogati e le posso dire che la lucidità non è mai stata, si sono rovinati, hanno rovinato il loro lavoro, la loro famiglia. Ma sì, ma siamo d'accordo tutti, Antonio, ma scusi un attimo, lei può, i parlamentari sono quasi 1000, rappresentano un microcosmo, no? Lei può immaginare che come in tutte i piccoli agglomerati, le piccole formazioni sociali che ci sono nel nostro paese, non rappresentino in qualche modo anche il resto? Ha letto dei dati sulla cocaina, lei crede che un po' non circoli anche in Parlamento? Io dico, e allora? Che cosa vogliamo fare di fronte a questo? Dicono, in Parlamento non può circolare, qui abbiamo persone pagate, stipendiate. Ho capito, ma è come dire la droga non ci deve essere, circolerà in parte, ci sarà qualcuno che ne ha fatto uso, ne continua ad avere uso, a fare uso, ma che cosa vogliamo fare? La caccia a chi fa uso di cocaina in Parlamento? La verità è che questo secondo me è un problema sorpassato, che la cocaina fosse illegale, va bene, perché illegale è anche andare con una prostituta o andare con un transessuale. Io neanche me ne preoccupo se il signor Silvio Berlusconi va con una prostituta o se il signor Marrazzo va con un transessuale. Dico solo, il problema nasce quando il signor Marrazzo fa uso di stupefacenti, perché fino a che va un transessuale io sono molto contento, anche perché io dico che leva... c'è persone più che non vanno le donne, sicché abbiamo più spazio noi che siamo eterosessuali. Vabbè, no? Antonio, questa è una sciocchezza, una battuta, una cosa senza senso, però voglio dire, oggi c'è qualcuno all'interno del Consiglio regionale del Lazio che propone di cancellare le delibere fatte da Marrazzo, non so quali delibere, perché dice questo rappresentante del PDL sono state fatte in preda ai fumi della cocaina o sotto l'effetto della cocaina. Che significa? Ma si rende conto a che punto siamo arrivati? No, io penso che no, perché qui arriviamo qui. Cadiamo nell'esagerazione, però ripeto il fatto che un parlamentare, un politico non fa, come nessuno può fare uso di cocaina o uso di qualsiasi. Sì, ma è come dire, ce lo possiamo dire io e lei. Sì, in teoria è così. Un parlamentare non dovrebbe fare uso di cocaina. Ce lo possiamo dire. È bella come enunciazione, così. No, è meravigliosa questa, però dopo praticamente non è così. Sì, nella pratica non è così, perché ripeto, sono 1000 parlamentari, rappresentano un piccolo microcosmo, rappresentano una parte di quello che accade in Italia, non c'è l'idea che possano essere dei Superman. TG3. Per l'Ox, economia in espansione, l'Italia verso una forte crescita, Fiat batte cassa, negli Stati Uniti disoccupazione record. Berlusconi incontra Casini, al centro alleanze per le regionali e giustizia, il leader centrista dialogo, sì ma in Parlamento. Domani l'assemblea del Partito Democratico con la proclamazione di Bersani, Marini al TG3, parte col passo giusto, quello da Montanaro. Napolitano ai magistrati, sulla giustizia bisogna dialogare, resto garante della vostra autonomia, no a riforme di corto respiro. Maroni, cellule di Al-Qaeda si addestrano in Italia per attentati anche nel nostro paese, nessun taglio alla sicurezza. Eutelia in crisi, vende ad Omega che annuncia più di 1000 licenziamenti, il TG3 negli stabilimenti occupati di Roma e di Milano. Sospetto sui sorteggi arbitrali del 2004 all'udienza di Calciopoli, ex segretario dei giudici di gara, parla di palline riconoscibili. Va bene, andiamo a sentire Sky TG24. L'Ox conferma forti segnali di crescita in Europa e l'Italia guida la ripresa. Per Berlusconi il peggio è alle spalle, per Tremonti il tempo è stato galantuomo. Negli Stati Uniti disoccupazione record, persi altri 190.000 posti di lavoro. Mozzate le mani a un'anziana uccisa in casa nel Varesotto e mistero sul movente. Terrorismo, l'allarme di Maroni, cellule di Al-Qaeda pronte a nuovi attentati in Italia. Pianosa, il caso è chiuso, intesa Alfano Prestigiacomo, il carcere non riaprirà. Lettera di Napolitano all'Associazione Nazionale Magistrati, serve apertura al dialogo. Influenza A, 30 vittime in Italia, Fazio avverte, il vaccino può essere utile a tutti. Strage nella base militare in Texas, il medico ha ucciso al grido "Allah è grande". Miglior album femminile, Laura Pausini vince ancora il Latin Grammy Award. Qualche ascoltatore, andiamo in provincia di Lecce, Pierluigi. Sì, Cruciani, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera, un attimo che poi c'è un temporalaccio, guardi, devo andare molto in piano. In provincia di Lecce, un temporale molto forte. Tremendo. Ascolti, Cruciani, sì. Io ascolto lei spesso la sera e vedo che molte volte, diciamo, non ridicolizza l'uomo di Pietro, ma l'uomo politico, diciamo, il modo con cui lui fa politica. Io vorrei semplicemente ricordarle che spesso Antonio Di Pietro sì, fa delle accuse dirette a Silvio Berlusconi o al suo diciamo, partito, però spesso la fonte, diciamo, delle accuse di Pietro sono atti processuali, sono diciamo, spesso si tratta di, come per esempio, peggio ancora, peggio mi sento. Cosa? Peggio mi sento se prendo in mano carte processuali e attacco no, a Berlusconi. Ascolti, forse sono stato infelice perché, ripeto, c'è un temporale, sono un po' agitato. No, ma lei si è espresso benissimo. Volevo semplicemente ricordarle un episodio. Allora, la Padania, 8 luglio 98. Sì, pubblica, lo so, Pierluigi, lo so. 10 domande, e molte delle quali sì. sono rivolte a Cavaliere Berlusconi sull'origine dei suoi finanziamenti. No, ma lo so benissimo, Pierluigi, sono allora, storie che conosco. Allora, crederei che si aprisse una discussione su queste 10 domande serie. Della no, Padania del 98, ridicole, guardi. Sono 7-8 mesi di cui stiamo parlando. Sì, d'accordo, Pierluigi, sì, le 10 domande della Padania del 98, se vuole ne parliamo, ma insomma, roba vecchia quella della Padania, magari alcune domande sono ancora attuali. All'epoca Berlusconi e la Lega, come sa, non avevano rapporti cordiali, ma in realtà in questo caso è da qualche tempo che non me la prendo più con Di Pietro. Ho avuto la fortuna, abbiamo avuto la grandissima fortuna di una partecipazione televisiva di Di Pietro a Che tempo che fa con Fabio Fazio, il quale gli ha detto: ma scusi, ma lei è sempre in televisione, come fa a lamentarsi? E da quel momento in poi non interessa nemmeno più quello che dice Di Pietro, perché ogni giorno in televisione ripete le stesse cose. E dunque abbiamo cambiato un po' argomento, se vuole. No, niente, praticamente, voglio dire, ci sono dei sappiamo tutti che ci sono dei buchi neri, degli aspetti mai risolti, mai chiariti del passato, diciamo, di questo signore, e spesso anche per il segreto bancario vigente, diciamo, nei paesi dove lui aveva dei rapporti. Lei di chi sta parlando? Di Berlusconi? Di Berlusconi stiamo parlando. Vabbè, no? Insomma, al di là del fatto che ci siano delle cose da chiarire. E non sono mai state chiarite, però. Va bene, dunque? Dunque, voglio dire, quando qualcuno si permette di fare una critica sul fatto che questo signore in un altro paese non civile, occidentale, non avrebbe le credenziali per guidare una nazione, perché comunque non ha i requisiti, in quanto abbiamo dei processi che gli sono stati estinti per prescrizione, altri per intervento amnistia, altri per assoluzioni, perché secondo lei dobbiamo essere grati a Di Pietro perché ci ricorda tutte queste cose. In un paese, quando uno dice che una persona così chiacchierata in un paese normale, come ha detto ieri la Fiorella Mannoia, non potrebbe guidare il paese, a questo punto potremmo dire che anche Mussolini poteva guidare. Se uno dice una cosa del genere, però vada al sodo, se uno dice una cosa del genere. Il sodo è questo, che secondo me lei esagera nella critica verso Antonio Di Pietro. Voglio dire, posso essere d'accordo con lei, anzi sono d'accordo con lei quando dice quando Antonio Di Pietro dice non sono mai presente in TV, invece è falso questo è vero. Magari lui voleva dire che spesso in TV lo fanno intervenire, poi dopo lo sminuiscono quello che dice. Non mi pare che avvenga questo, Pierluigi. Questo è vero, però secondo me lei esagera nel fare una critica verso è una trasmissione anche un po' ironica, non è che dobbiamo prenderci per forza sul serio. La ringrazio. Paolo da Milano. Sì, buonasera. Dica. Buonasera Cruciani, salve. Ma senta, io sostanzialmente sono d'accordo con lei per quanto riguarda l'inutilità dei test antidroga ai parlamentari, anche perché il problema in sé non è solo il test antidroga, il problema in sé è che io cittadino devo poter esprimere una valutazione del politico in quanto tale. L'unica maniera, a mio modo corretta, di farlo è poter esprimere il mio voto e decidere se tenerlo o mandarlo a casa. Questo comunque coinvolge anche altri aspetti che non sono soltanto la droga, investe altri aspetti che sono la legalità nel suo complesso, quindi il problema è solo poter giudicare il politico in quanto tale, perché poi come persona sarà giudicato dalla magistratura. Bene, grazie Paolo, grazie. Mario da Verona, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Senta, intanto mi permetto di darle un consiglio. Mettere l'intervento di ieri sul commerciante di droga nei promo, perché è letteralmente fantastico, ecco, questo mi perdoni, ma era fantastica. Qualcuno l'ha interpretato il fatto che io ho dato un po' corda a Massimo, che ci chiamava da Roma, se non sbaglio, l'ha interpretato come una sorta di istigazione all'uso della droga, in realtà non è così. Ma d'altronde la mamma degli imbecilli è sempre incinta, mi verrebbe da dire. Senta, io ho chiamato per due questioni. La prima è appunto, l'ascoltatore di prima mi ha preceduto appunto nel concetto che volevo esprimere. Mi dà fastidio quando qualcuno vuol far capire che se un politico si fa una canna, perché quella ha uso di stupefacenti, se non sbaglio, si dovrebbe dare per scontato che questo qua non è un buon politico. Io veramente ho dei forti dubbi, piuttosto in testa antidroga li farei per quegli interventi registrati che ha fatto sentire poco prima, lì veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. Ma quelli di Prosperini, per esempio? Sì, difatti, cioè veramente lì siamo. Io non credo che Prosperini faccia uso, so che lei è ironico su questo, non credo che faccia uso di sostanze stupefacenti. Sono ironico, ma ripeto, io mi sembra la stessa buttata di quando si dice bisogna cambiare classe politica, ma sì, come se la nuova fosse per scontato che è migliore. Vabbè, primo intervento. Poi un'altra cosa, se mi permette, devo deluderla, ma vorrei ritornare sulla sentenza della Corte Europea. Non voglio entrare nel merito della sentenza, anche se la condivido, le dico la verità. Quello che mi dà fastidio è aver sentito dei commenti di quasi tutti i politici italiani disperati, indignati, arrabbiati, però mi verrebbe da dire che i politici nostri danno quotidianamente esempio di tutto tranne che essere cattolici, perché conducono una vita privata, hanno tutto il diritto a essere ben chiaro, ma che va assolutamente contro tutti i principi. E dunque secondo lei non si possono esprimere sul crocifisso? No, perché io trovo che sia incoerente. Però mi scusa, anche qui non sono d'accordo, perché una cosa è la coerenza dei propri comportamenti quando poi si fanno le leggi rispetto ai comportamenti privati, una cosa è quello che si pensa di un simbolo, è un'altra cosa, o no? Ma io la vedo in modo diverso, le ripeto, io credo che un qualcosa si debba difendere se veramente uno ci crede, uno ci crede, ma nel caso, lo ripeto, di tutti i nostri politici, chi si è fatto trovare con prostitute negli alberghi, chi nelle proprie abitazioni, chi con trans, cioè stanno dimostrando tutti quanti che i principi del cattolicesimo questi qua non li conoscono nel modo più assoluto. E dunque non possono difendere, non possono andare contro questa sentenza della Corte di Giustizia europea. No, allora io dico, appunto, avevo detto all'inizio, non voglio entrare nel merito, che io condivido pienamente quella decisione, pur essendo cattolico, non credo che sia la croce appesa al muro che possa farmi diventare più o meno cattolico. Mm. Però ripeto, loro lo difendono come, cioè, si ergono a paladini del cattolicesimo. Io trovo che sia incoerente. Poi, per carità, possono fare tutto quello che vogliono. Bene, Mario, grazie. Enzo da Torino. Dottor Cruciani, buonasera. Buonasera. Allora, una breve premessa. Innanzitutto sono molto contento, visto che ho l'occasione di parlare con lei, che oggi il CIPE abbia dato l'ok alla partenza per il ponte di Messina. Per carità, non nomi il ponte sullo stretto di Messina, sennò arrivano gli indiani a lanciarci le frecce. Cosa vuole? E anche della linea ad alta velocità Genova-Milano. Comunque, non telefonavo per questo, non voglio neanche scatenare gli indiani. Telefonavo invece perché ieri sono stato veramente felice. Io sono un 58enne, libero professionista, di cultura liberale vera, liberale liberista, ho sempre votato repubblicano. Sono contento e ringrazio il governo polacco per la presa di posizione che ha fatto a proposito della proposta per la candidatura del signor Massimo D'Alema a ministro degli esteri europeo, che non è gradita per una ragione molto semplice, non gradita, inopportuna, perché questo signore è stato un comunista e probabilmente, per quello che io non lo escludo, magari dentro di sé lo è ancora. Mm. Ora, che un signore che fino a 15 anni fa avesse tutto un certo tipo di atteggiamento nei confronti della democrazia, oggi che si è dato un po' di vernice, come molti altri suoi compagni, del Partito Democratico. Sì, però adesso, prima di parlare della vernice di D'Alema, ci sono due considerazioni da fare su questa vicenda del ministro degli esteri europeo. Io, al contrario di quello che lei immagino pensa di D'Alema, sono favorevolissimo a questa nomina, spero che si faccia, perché sarebbe un bel segnale, insomma. Cioè, il segnale che quando sono in gioco, quando è in ballo l'interesse nazionale, diciamo, maggioranza e opposizione vanno dalla stessa parte, primo. La seconda considerazione è invece un po' più ironica, se vogliamo. Cioè, i comunisti non è che sono solamente un'ossessione, un'invenzione di Berlusconi. Quando il ministro degli esteri della Polonia parla del passato comunista di Veltroni, come sia di D'Alema, come un ostacolo per questa nomina, evidentemente la questione del comunismo non è solo nella testa di quel pazzo malato di Berlusconi, lo dico. No, ma mi scusi, io sono contento per una ragione molto semplice, perché la sinistra, se vuole veramente riformarsi, deve darsi una nuova classe dirigente, capisce? Era sotto questo profilo. Io, tutti abbiamo un passato, tutti siamo ex di qualche cosa, quindi non... Per questo mi sembra una critica la sua infondata. No, cioè, però, nel senso che io sono favorevole perché, al di là delle questioni che riguardano le posizioni di D'Alema nel passato, Hamas, tutte queste robe qui, mi interessano poco. Credo che sia un qualcosa di importante per l'Italia, al di là del ruolo che poi in realtà ancora è molto nebuloso, quello di ministro degli esteri dell'Europa. Però c'è questo aspetto curioso, no? Non c'è solo Berlusconi che parla di comunisti. La ringrazio. Gianni dall'Aquila. Pronto? Sì, buonasera Gianni. Salve Gianni. Dunque, io da poco che seguo la trasmissione, però la trovo interessantissima. Vorrei dire una valanga di cose, però cerco di stringere un attimino il tutto. Dunque, io sono veramente esterrefatto di quello che sta accadendo qui in Italia. Battiato su Sky TG24. Battiato, che abbiamo imparato a conoscere negli anni. Federica Pirchio, Sky TG24. Era la fine del servizio sulle immagini del singolo di Battiato. Gianni, che diceva? Sì, appunto. stavo dicendo che sono veramente esterrefatto di quello che sta accadendo in Italia. Io non ho, diciamo, tendenze politiche particolari. A me l'unica cosa che interessa, sinceramente, è quella di far quadrare un attimino il cerchio. Perché? Perché qui noi ci occupiamo di problemi che sinceramente sono stupidi, intendo dire come italiani, no? A me può interessare di meno se Berlusconi ha o non ha rapporti con quella o quell'altra persona, può interessare di meno se Marrazzo decide di fare della sua vita quello che vuole. A me l'unica cosa che interessa è che queste persone, quando sono al comando di una nazione, facciano le cose per migliorare la condizione generale del paese e possibilmente. Vabbè, però Gianni, poi alla fine si parla anche della privacy dei politici, inevitabilmente, per cui è inutile dire sì, ci sono cose più importanti. Certo, è molto importante per esempio la questione della banda larga in Italia, dei soldi che il governo prima aveva promesso attraverso il sottosegretario Romani e poi ha tolto, diciamo così, con un comunicato da parte di Gianni Letta, 800 milioni di euro. È molto importante questa questione, decisiva, e dunque il governo farebbe bene a rimettere in campo questi denari, questi quattrini. Sono queste le cose fondamentali. Però si parla anche della privacy dei politici, inevitabilmente, che privacy evidentemente non è. Esatto, però io non sto facendo un appunto alla trasmissione, sia ben chiaro. Io sto No, ma non è questo, sto dicendo che alla nostra abitudine di dare importanza a cose che sinceramente in questo momento non hanno. La banda larga è una cosa importantissima, quella lì va comunque discussa e va comunque chiarita, come del resto è importante incentivare l'economia, come del resto è importante permettere alle persone di poter lavorare e via dicendo. Però intendo dire che a me sinceramente che Berlusconi si sia rubato qualche cosa o abbia fatto qualche cos'altro, che quello abbia, cioè alla fine quello lì rientra nella sfera privata e comunque non mi interessa, cioè, nel senso, a me mi interessa solamente che Berlusconi o chi per lui in quel momento al governo praticamente, quindi a capo di un ho capito Gianni, le interessa come governano, d'accordo, ma questo qua insomma è scontato dirlo. Fatto sta che nel dibattito pubblico entrano anche inevitabilmente altre questioni. 3:49:238:6666, dove andiamo? Naturalmente TG3. Per l'OCSE, economia in espansione, l'Italia verso una forte crescita, Fiat batte cassa, negli Stati Uniti disoccupazione record. Berlusconi incontra Casini, al centro alleanze per le regionali e giustizia, leader centrista dialogo, sì ma in Parlamento. Domani l'assemblea del Partito Democratico con la proclamazione di Bersani, Marini al TG3, parte col passo giusto, quello da Montanaro. Napolitano ai magistrati, sulla giustizia bisogna dialogare, resto garante della vostra autonomia, no a riforme di corto respiro. Maroni, cellule di Al-Qaeda si addestrano in Italia per attentati anche nel nostro paese, nessun taglio alla sicurezza. Eutelia in crisi, vende ad Omega che annuncia più di 1000 licenziamenti, il TG3 negli stabilimenti occupati di Roma e di Milano. Sospetto sui sorteggi arbitrali del 2004 all'udienza di Calciopoli, ex segretario dei giudici di gara, parla di palline riconoscibili. Va bene, andiamo a sentire Sky TG24. L'OCSE conferma forti segnali di crescita in Europa e l'Italia guida la ripresa. Per Berlusconi il peggio è alle spalle, per Tremonti il tempo è stato galantuomo. Negli Stati Uniti disoccupazione record, persi altri 190.000 posti di lavoro. Mozzate le mani a un'anziana uccisa in casa nel Varesotto e mistero sul movente. Terrorismo, l'allarme di Maroni, cellule di Al-Qaeda pronte a nuovi attentati in Italia. Pianosa, il caso è chiuso, intesa Alfano Prestigiacomo, il carcere non riaprirà. Lettera di Napolitano all'Associazione Nazionale Magistrati, serve apertura al dialogo. Influenza A, 30 vittime in Italia, Fazio avverte, il vaccino può essere utile a tutti. Strage nella base militare in Texas, il medico ha ucciso al grido Allah è grande. Miglior album femminile, Laura Pausini vince ancora il Latin Grammy Award. Eccoci, 800 24 00 24, per chiamarci. La questione del crocefisso di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi la si può affrontare in tanti modi. Abbiamo certamente esaurito tutte le questioni che riguardano il crocefisso. Un ascoltatore prima mi chiama, insomma, basta con questa storia del crocefisso, basta con la questione del test dei parlamentari, abbiamo dato, è vero, però abbiamo raccolto Pier Gianni Prosperini, come sapete, A me piace molto parlare con Prosperini, che è deputato regionale in Lombardia, molto verace, è un uomo che fa anche spettacolo. L'abbiamo preso da Iceberg perché, ripeto, lo apprezzo anche, apprezzo soprattutto il modo in cui affronta le questioni. Lo apprezzo come uomo di spettacolo, diciamo così. E però, Prosperini, non si possono dire certe cose sulla vicenda del crocifisso. Sentiamo. Ultimo atto, addirittura una Corte Costituzionale costituita, Corte Europea dei diritti dell'uomo. Sì, costituita da residuati bellici di sinistra più o meno scampati. Andava bene lo stesso, e scappati, anche per la Corte, una roba brutta che me è peggiore. Si interessa di sapere in un paese al 93% cattolico che cosa si deve esporre o non esporre. Oltretutto, non c'è una classe musulmana, cioè non c'è un alunno musulmano o un'alunna musulmana o una mamma musulmana, a parte un deficiente che però non è neanche musulmana all'italiana, che abbia mai sentito il bisogno di togliere il crocifisso. Al massimo qualcuno ha detto: festeggiamo anche le nostre feste. Allora, cioè questa è una cosa, assessore, presa da questa banda di veri cialtroni dell'intelletto e della morale, che vengono a dettare a casa nostra come dobbiamo. Fra un po' ci diranno come mangiare. Ma perché mangiamo la pasta asciutta? Allora, veniamo poi dopo ai nostri. E questo era Prosperini, che ha parlato dei giudici della Corte Europea, che non conosceva nemmeno. Come corte, ha parlato di Corte Costituzionale Europea, residuati bellici e cialtroni. Ancora Prosperini. Un'Europa imbrogliona, bugiarda, matrigna, ubriacona e molesta, che è servita all'Italia solo per regredire, solo per avere la misura dei piselli, solo per avere i vini che non sono vini, il cioccolato che non è cioccolato. Non c'è una cosa che abbia fatto l'Europa che sia servita a questa nazione. E questo è Prosperini, ancora sul crocefisso, residuati bellici della vicenda del crocefisso, possiamo chiamarli così. Dopo Dario Fo, che ha paragonato il crocefisso alla svastica o alle nefandezze, poche secondo lui, della falce e martello, e sempre della falce e martello parla il segretario di Rifondazione Comunista Ferrero, sentitelo. Questo non vuol dire che nella scuola, no, io penso, non ci debba essere né il crocifisso, né la falce e martello, né altri simboli di una parte. La scuola è laica. Scusate, la scuola è laica e non democratica. Non si può paragonare la falce e martello al crocifisso. Ognuno c'ha i suoi. Ognuno c'ha i suoi. La falce e martello rispetto per i nostri colleghi. Cominciamo bene Rai 3, questa è la trasmissione, grandi contenitori in cui c'è di tutto, politica eccetera, un grande talk show la politica, la televisione italiana in realtà, tutti i programmi sono pieni di discussioni tra uomini politici che educano solo l'imbarazzo della scelta, possono andare a Cominciamo Bene, Alla Vita in Diretta eccetera eccetera. Berlusconi, le 10 domande, ripeto, ascoltatemi bene, secondo me Berlusconi ha sbagliato, un errore madornale a rispondere e a non rispondere a queste 10 domande di Repubblica, le famose 10 domande di Repubblica nel libro di Vespa, un errore grossolano secondo me madornale, soprattutto dopo aver definito in questo modo le 10 domande, sentite. Io non rispondo a domande insolenti, offensive e diffamanti. Se queste domande in altro modo me le avesse poste un giornale che non fosse un super partito politico di un editore svizzero con un direttore dichiaratamente evasore fiscale, ad un altro giornale, a questi contenuti di domande avrei risposto. Non a quella del fatto che se fossi malato, perché basterebbe per vedere le cose che ho fatto in questi 15 mesi di attività governativa per dire che non sono malato, sono Superman. E che è Superman? Cioè a me Superman mi fa ridere. E questo era Berlusconi, una critica anche a Walter Veltroni, che è scomparso dalla scena politica, come sapete, o almeno dal palco della scena politica, e si dedica soprattutto alla vendita del suo libro Noi, del suo romanzo Noi. E però c'è qualcosa che non torna, perché Veltroni ultimamente, ma già da qualche mese, dice la sua sul sistema dell'informazione in Italia, che è un sistema malato, un sistema che ha un sacco di problemi, il conflitto di interesse, Berlusconi, la televisione occupata da Berlusconi, lo strapotere mediatico del Premier, sentitelo. Il tema del conflitto di interessi, che è una tipica battaglia liberale, non puoi avere condizioni per alterare il gioco democratico. Può succedere che ci sia una democrazia di carattere, democrazia formale di carattere autoritario.

al comando di una nazione facciano le cose per migliorare la condizione generale del paese e possibilmente. Vabbè, però Gianni, poi alla fine si parla anche della privacy dei politici, inevitabilmente, per cui è inutile dire sì, ci sono cose più importanti. Certo, è molto importante per esempio la questione della banda larga in Italia, dei soldi che il governo prima aveva promesso attraverso il sottosegretario Romani e poi ha tolto, diciamo così, con un comunicato da parte di Gianni Letta, 800 milioni di euro, è molto importante questa questione, decisiva, e dunque il governo farebbe bene a rimettere in campo questi denari, questi quattrini. Sono queste le cose fondamentali, però si parla anche della privacy dei politici, inevitabilmente, che privacy evidentemente non è. Esatto, però io non sto facendo un appunto alla trasmissione, sia ben chiaro, io sto abitudine, alla nostra abitudine di dare importanza a cose che sinceramente in questo momento non hanno. La banda larga è una cosa importantissima, quella lì va comunque discussa e va comunque chiarita, come del resto è importante incentivare l'economia, come del resto è importante permettere alle persone di poter lavorare e via dicendo. Però intendo dire che a me sinceramente che Berlusconi si sia rubato qualche cosa o abbia fatto qualche cos'altro, che quello abbia, cioè alla fine quello lì rientra nella sfera privata e comunque non mi interessa, cioè, nel senso, a me mi interessa solamente che Berlusconi o chi per lui in quel momento al governo praticamente, quindi a capo di un ho capito Gianni, le interessa come governano, d'accordo, ma questo qua insomma è scontato dirlo, fatto sta che nel dibattito pubblico entrano anche inevitabilmente altre questioni. Walter da Cesena, buonasera. Buonasera Cruciani, sempre un piacere ascoltarla. Cioè, gli argomenti sarebbero tanti, una battuta la vorrei dire, sono d'accordo con lei sulla cocaina, parafrasando una cosa, dicendo, guardando quello che è successo in questi 60 anni, i nostri politici cosiddetti sani, quello che hanno combinato in Italia, beh, vivi Dio, lasci che si droghino ogni tanto, anche loro, chissà che migliori qualcosa. Il mio intervento più che altro era sui nostri dirigenti di sinistra, io sono di sinistra, ho sempre votato sinistra, ho 55 anni, e voglio dire cosa hanno combinato dal 91 in avanti, da quando c'è stata la svolta della Bolognina. Piano piano hanno ridotto quella che era la nostra idea di sinistra, non certamente la mia, ad esempio, riferita al Partito Comunista Russo, per carità, che conosco la storia delle dittature comuniste, un disastro, però di un Partito Comunista Italiano che comunque ha contribuito durante la guerra, eccetera eccetera. I nostri dirigenti piano piano hanno rovinato un'idea di sinistra, hanno ridotto, non abbiamo più passione politica, e questo è che io li voglio accusare. Ho capito, ma però le idee bisogna anche averle, diciamo, no? Ma ha ragione, effettivamente sono d'oggi, non hanno più nessuna idea, perché come altre volte avete discusso, sono 6 mesi che rincorrono le donne di Berlusconi senza fare mai una proposta politica. Le voglio dire che con questa sinistra che abbiamo, con i nostri dirigenti, la destra governerà per altri 40 anni, perché anche Bersani, secondo me, non è in grado di risolvere quale problema. Poi voglio fare, mi scusi se salto, un appostino su Rutelli. Pensi che noi sinistra l'abbiamo votato, gli abbiamo dato la possibilità, non solo noi, la possibilità di diventare premier a lui, a cacciare, perché sono 15 anni, eccetera, eccetera. Adesso girano, ci hanno girato le spalle anche loro, contribuendo a indebolire ancora di più la sinistra, secondo il mio modesto parere. Beh, secondo altri invece ho sentito molte voci all'interno del Partito Democratico, certamente non di persone scontente per l'addio di Calearo, di Rutelli e di Cacciari. La ringrazio. Sandro da Taranto. Buonasera. Allora, dica. Io telefono a nome dell'Associazione Protezione Animali, esattamente la sezione Cani Poliziotto, perché ho sentito dire in televisione in un dibattito, mi pare da un parlamentare, scusi, da sta scherzando o sta parlando? È una battuta, naturalmente. Che se portassero un cane poliziotto antidroga in Parlamento, questo impazzirebbe. Lo sa, le associazioni in Italia ce ne stanno tante, per sicuro ci sono associazioni di questo tipo. No, non sono. È una battuta e spero che non sia così. Penso che occorrerebbe che se un padre famiglia si droga, la moglie e i figli hanno il diritto di dire cerca di redimerti, bello mio. Soprattutto lo possiamo dire a chi paghiamo profumatamente che non facesse queste porcherie, perché deve essere un padre famiglia per eccellenza, così si scandidano. Mm. Punto secondo, Berlusconi... Non ho capito qual è la sua posizione sulla testa antidroga, però va bene lo stesso. Ma io penso che sarebbe opportuno essere chiari, essere la verità è la cosa più bella, sennò... Allora, essere chiari che significa? Essere chiari significa che visto che ci sono, detti da parlamentari stesse, queste cose qui, allora facciamo un test e chi è su questa cattiva strada lo si riportasse sulla buona. In che modo? Che facciamo? Non so, si facesse il segno della croce per aiutare Gesù Cristo, perché spesso mi pare che più di qualcuno sia Satana invece di cercare di governare bene o altro. Ho capito, per come facciamo concretamente, Sandro, al di là delle parole così generiche dette, che si fa concretamente? Secondo me ci vorrebbe una legge che chi si droga abitualmente e così via, cortesemente facesse un altro mestiere. A Va capo bene. Della nazione disastrata per certi versi come la nostra non dovrebbe essere. Va bene, poi? Un attimo. Pronto? Sì, la sento, Sandro. Berlusconi ha un'azienda, mi pare, con 60.000 persone che nessuna è stata mai licenziata, se non sbaglio. Viceversa, dalle parti dei paesi comunisti hanno messo, con questa ideologia che purtroppo non ha funzionato, tanti cittadini a scapparsene sottoterra, con le mongolfiere, sparati, ammazzati. Sandro, il paragone non esiste, lei lo sa bene, non c'entra niente. Berlusconi imprenditore, paesi comunisti, cosa c'entra? Ultima cosa che volevo dire. No, ultima cosa, non ha detto né la prima né la seconda, dica la terza. Interrompo qui, vi lascio la trasmissione. Grazie a lei. Roberto da Brescia, buonasera. Roberto? Pronto? Sì, dica. Buonasera, no, senta, io volevo semplicemente darle ragione sulla questione del test antidroga. Facendo un piccolo appunto a tutti i suoi ascoltatori, a quelli che hanno chiamato prima di me, i quali si preoccupano tanto appunto di sapere se un deputato della Repubblica Italiana qualche volta nella sua vita o in qualche serata avrà assunto cocaina o fatto un tiro da uno spinello, cose di questo genere, e poi invece vedendo qualche trasmissione televisiva, mi riferisco alle Iene, viene fuori un desolante panorama nel quale i nostri deputati a volte non conoscono anche nozioni elementari di politica estera. Lei ha fatto sentire prima Prosperini, che mi sembra sia un consigliere, un assessore regionale, che si riferisce alla Corte di Giustizia chiamando la Corte Costituzionale. Ho sentito deputati che non conoscevano neanche chi fosse il primo ministro israeliano, il presidente della Repubblica di Israele, cose di questo tipo. Allora, secondo me, se vogliamo fare dei test così stupidi come quello antidroga, perché non cominciamo anche a istituire qualche test di cultura generale o di cultura politica per sincerarci di che persone abbiamo mandato in Parlamento? No, questa potrebbe essere una cosa scherzosa e anche divertente in realtà. I test di cultura generale non fanno male a nessuno e possono mostrare, come dire, alla pubblica opinione il livello di preparazione dei nostri politici, anche se è difficile, no? Giudicare poi un politico solo attraverso una domanda di cultura generale. Certo, ricordo quel deputato, non ricordo esattamente il nome, che non sapeva bene il presidente e il primo ministro di Israele, faceva un po' di confusione. Massimo dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Volevo esprimere la mia opinione su quanto riguarda la risposta che Berlusconi ha dato alle domande di Repubblica, che poi le ha date a Bruno Vespa. Ritengo che non abbia fatto così male come lei invece asseriva, perché tutto sommato nel momento in cui aspetti della vita privata di una persona esondano dagli argini appunto della vita privata per interessare alla fine la vita pubblica e insomma tutti gli elettori o potenziali elettori, una qualche risposta debba essere data. Ritengo anche che in fondo sia stato coerente con quanto aveva affermato precedentemente nel brano che lei ci ha fatto riascoltare. In fondo aveva detto: a Repubblica non rispondo, ma se un giornalista mi facesse le stesse domande in modo diverso, nel merito io risponderei, che è quello che poi ha fatto, cioè ha risposto a Vespa, che evidentemente gli ha posto le medesime questioni, se non le medesime domande, a cui lui poi alla fine ha dato risposta. Sì, è vero quello che lei dice, ma se riascoltiamo bene Berlusconi e le 10 domande il primo settembre, in realtà non è che diceva io risponderò a un altro giornalista perché me le pone in maniera diversa, dice sono domande sostanzialmente in parte ho già risposto a queste domande, il resto sono solo offese. Io non rispondo a domande insolenti, offensive e diffamanti. Se queste domande in altro modo me le avesse poste un giornale che non fosse un super partito politico di un editore svizzero con un direttore dichiaratamente evasore fiscale. Questo dice Berlusconi, Massimo, effettivamente è quello che dice lei, ma il problema è un altro. Quando si pensa che queste 10 domande siano, siccome poi vengono presentate in questo caso come le risposte di Berlusconi alle 10 domande di Repubblica, in questo modo le interpretano tutti, da Repubblica naturalmente in giù, io dico se uno pensa tutto il male possibile alle 10 domande poi a un certo punto rispondi, insomma, mi sembra dal punto di vista della comunicazione così. Poi tra l'altro si stava parlando, diciamo, se uno si mette nella testa di un uomo politico del centrodestra, che non sono io, si sta parlando in questi giorni, no, dell'affare del sesso di Marrazzo, e ritorna a bomba la questione Berlusconi semplicemente perché Berlusconi risponde alle domande di Vespa. Insomma, è un po' bizzarro, no? O no? TG5. L'OCSE, l'economia mostra forti segni di ripresa, l'Italia è quella che va meglio. Berlusconi, siamo il sesto paese più ricco, superata la Gran Bretagna. Tremonti, il tempo è stato galantuomo. Allarme del ministro Maroni, in Italia ci sono cellule terroristiche affiliate ad Al-Qaeda pronte a colpirci, formate e addestrate nel nostro paese. Strage nella base di Fort Hood in Texas, uno psichiatra militare di origine palestinese uccide 13 commilitoni. Non voleva partire per Kabul. Obama, sono sconvolto. 4 nuove vittime dell'influenza A, ma erano già tutti debilitati a causa di altre malattie. Il viceministro Fazio, l'importanza di vaccinarsi per evitare una seconda ondata. Giallo a Varese per un delitto crudele, donna 82enne uccisa a coltellate e mutilata. Introvabili le sue mani amputate con precisione chirurgica. 27 anni, tanto è durata la causa per un'eredità a Latina. Il Ministero della Giustizia condannato a risarcire 67.000 euro. In Inghilterra educazione sessuale obbligatoria a 15 anni, ma è davvero utile o è meglio che a informare i ragazzi siano le famiglie? Inchiesta del TG5. Venti e un minuto, TG1. Segnali di ripresa economica, dice l'OCSE, l'Italia al top. Berlusconi, siamo il sesto paese più ricco, il peggio è passato. America sotto shock per i 13 militari uccisi da un medico nella base di Fort Hood. Poco fa, un'altra sparatoria a Orlando. Incontro Berlusconi-Casini che dice soli alle regionali, sì alla riforma della giustizia, Napolitano ai magistrati, dialogo per le riforme. Orrore a Varese, anziano ucciso a coltellate nella sua villetta, l'assassino ha tagliato e portato via le mani. Influenza A, altri 3 morti, tutti con gravi malattie, vaccinarsi anche dopo il picco per evitare che possa trasformarsi. Addio, occhi a mandorla, la seconda generazione di immigrati cinesi per somigliare agli italiani, va dal chirurgo. Padre e datore di lavoro lo riconoscono in TV, ha un nome, lo smemorato di Monza, ma lui continua a non ricordare. Il TG1 ci fa credere che ci sia davvero questa moda tra i cinesi di seconda generazione di cambiare le loro sembianze estetiche, cioè farsi togliere gli occhi a mandorla per somigliare di più agli italiani. Bah, non ci credo nemmeno per un secondo. TG5. No, abbiamo già mandato la 7. Maroni lancia l'allarme terrorismo islamico. In Italia cellule di Al-Qaeda si addestrano a compiere attentati. Per il ministro dell'Interno, dopo l'attentato di Milano, non siamo più un paese dove i terroristi raccolgono solo fondi e reclutano affiliati. L'OCSE annuncia segni di ripresa particolarmente positivi in Italia e parla di rafforzamenti della crescita anche in Francia, Gran Bretagna e Cina. Berlusconi esulta, il peggio è passato, Obama no. Negli Stati Uniti la disoccupazione supera il 10%, ci vuole fiducia e pazienza, dice. Mistero ed orrore a Varese, 82enne trovata uccisa e mutilata nella sua villa. L'omicida le ha amputato entrambe le mani. In casa nessun segno di furto, la procura azione premeditata di una mente malata. Domani tornano le sfide di campionato, tutti rincorrono l'Inter che ha 7 punti sulla seconda, la Juventus. Loro bravi ma non irraggiungibili. Va bene, andiamo a Padova, Ugo. Buonasera, io volevo parlare dell'ormai annosa questione del crocifisso. Beh, annosa, è esplosa qualche giorno fa, appena, però ormai si è detto quasi tutto, lei cosa vuole aggiungere? che ora penso si può essere d'accordo o contro. Ok, capisco che i laicisti siano felici di questa sentenza e difendano l'autorevolezza di questa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma io mi chiedo quando, come e perché abbiamo dato a questa Corte il potere di dire allo Stato italiano cosa può o non può fare. C'è stato un trattato? Ugo, stato beh certo, ci sono le norme che prevedono che si possano fare ricorsi anche fino alla Corte Europea di Giustizia. Sì, ma c'è stato un dibattito se volevamo veramente dare a questa Corte... È un dibattito, non esageriamo, insomma. Alcune norme, diciamo, europee... le hanno costruite, diciamo, i governanti che avevano mandato per farlo, naturalmente, punto. Che, poi tanto per vedere, stamattina mi sono messo a controllare le bandiere dei paesi del Consiglio d'Europa che a quanto pare sono sottoposti alla giurisdizione della Corte tanto quanto noi. Allora, vabbè, Turchia e Azerbaigian hanno la mezzaluna, poi ci sono 11 paesi che hanno chiaramente una croce sulla bandiera, altri 6 ce l'hanno nello scudo, nello stemma del paese e poi c'è la bandiera dell'Unione Europea che ha le 12 stelle, che sappiamo che è un simbolo mariano, la corona di 12 stelle della Madonna nell'Apocalisse. Allora diranno anche che i simboli religiosi in queste bandiere violano il diritto degli abitanti a vivere secondo le loro convinzioni e la libertà di religione dei cittadini? No, ma ripeto, però tutto deve essere riportato al ricorso che è stato fatto. C'è stato un ricorso preciso sulla presenza nei luoghi pubblici, non sulle bandiere. La ringrazio. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, io le volevo soltanto esprimere un'amarezza da cittadino italiano che vede tante discussioni che secondo me sono soltanto strumentali, tante dichiarazioni veramente con toni alterati di politici che si dichiarano pro o contro il crocifisso o la morale o questo o quell'altro, ma io lo vedo sempre comunque come un discorso di tornaconto politico. Queste persone che predicano bene ma razzolano male mi deludono alquanto, ma visto che sono bipartisan non so più come cittadino cosa pensare, chi votare, diciamo un'amarezza generale. Sì, ho capito, l'amarezza per esempio per che cosa? Perché altrimenti... Ma un intervento come quello di La Russa sul crocifisso non lo posso credere basato soltanto su un convincimento personale. Lo vedo molto un messaggio politico a chi vede o chi cerca un appoggio vaticano per un certo tipo di tornaconto personale. Faccio soltanto un esempio, insomma. Beh, La Russa può essere convinto delle cose che dice, naturalmente, perché lei ci deve vedere semplicemente una cosa di tornaconto personale o di tornaconto politico. Può essere convinto dell'utilità di avere o del fatto che il crocifisso deve stare nei luoghi pubblici, perché no? Ma no, non è quello il discorso, è che se andiamo alle radici del concordato andiamo a vedere qual è stata la convenienza politica allora dello Stato italiano, oppure andiamo a vedere dei politici che nel pubblico menano il dito accusatore e vittoriano per gli usi e costumi e poi nella vita privata fanno tutt'altro. Sono convinto che nella vita privata ognuno abbia il diritto sacrosanto di fare quello che vuole. Personalmente vedo la religione come un fatto estremamente privato, dove uno potrebbe e dovrebbe esprimere meglio di sé, ma tutto questo viene usato, come cattolici italiani, come in tante altre religiosi, Islam compreso, per scopi politici. Però mi scusi, secondo questo ragionamento, diciamo, chi è separato, per esempio, non potrebbe fare discorsi sulla famiglia? Ognuno è libero di esprimere quello che pensa. Cioè un politico separato non potrebbe fare discorsi sulla famiglia, sul quoziente familiare, eccetera, secondo il suo ragionamento. Ognuno è libero di esprimere i concetti. Io lei ci vede una contraddizione? Lei ci vede una contraddizione nel fatto che, per esempio, un politico separato o divorziato, eccetera, faccia dei discorsi sulla famiglia, ruolo della famiglia. No, sono i toni da crociata che mi puzzano di non veri, di non sentiti. Sì. E purtroppo quando si sentono discussioni fra politici, ognuno sguaina la spada più grossa per far vedere, per far sentire la propria voce, e la coerenza invece non la si vede molto spesso nel comportamento dei nostri politici, come votano, come cosa fanno, sulle parole dette in periodo preelettorale e poi quanto vengono mantenute, al di là delle difficoltà obiettive, intendo. Va bene, grazie. Da Udine ci chiama Antonio, buonasera. Buonasera, mi sente? La sento, dica. Un attimo solo che mi accosto che sono in macchina. Prego, faccia. Allora, siamo qui per questo. La ringrazio. Ecco fatto, adesso sono fermo. Tranquillo. Io vorrei intervenire riguardo la decisione del governo di bloccare i finanziamenti sulla banda larga. Sono molto deluso per questa decisione. Mi sembra che il governo si concentri solo su interventi altisonanti, eclatanti, che sembrano essere risolutivi di ogni problema, come l'alta velocità per risolvere i trasporti, oppure, e qui mi dispiace, fa solo l'indiano, per il ponte sullo stretto, o il nucleare per quanto riguarda l'energia. Ma senza tutti gli interventi minori ritengono che questi qui possano essere solo effetti propagandistici. Tutto qua. No, ma Antonio, naturalmente non sono d'accordo per quello che riguarda il ponte sullo stretto, cioè non vedo le due cose in contrasto, come evidentemente le vede lei, ma anch'io penso che la questione della banda larga sia fondamentale e non capisco perché come si possa dire sì, investiamo sulla banda larga, però quando sarà finita la crisi troviamo i soldi. Mi sembra una cosa un po' assurda. La ringrazio, Antonio, di aver posto sul piatto della discussione serale anche questo problema. Enrico da Prato. Buonasera Cruciani. Enrico, prego. Per la trasmissione. Grazie. Buonasera. Volevo condividere con lei e con gli ascoltatori, se mi permette, una riflessione che ho fatto con i colleghi di lavoro, con gli amici in questi giorni, vedendo tutte le cose che succedono nella politica italiana. È sicuramente una provocazione, lei sicuramente mi salterà addosso. No, però, no, per carità. Visto chi ha le escort, i trans e tutto quello, tutti gli aspetti privati che vengono ribaltati, vengono portati alla luce, e secondo me la vita privata sì, andrebbe tutelata, però è come quella di un calciatore e quella di un politico, no? Naturalmente il prezzo della notorietà si paga e ha un costo, e certo. Quindi non c'è soluzione, ecco. Visto, ecco, indipendentemente da trans piuttosto che da escort, secondo me, io leggo in queste forme di in questi modi di vivere la sessualità una devianza, anche se la devianza soprattutto nella sessualità rispetto alla normalità è sicuramente difficile da definire, però ecco, il fatto che ci guidino nella Regione Lazio piuttosto che al governo, ma chissà in quanti altri amministrazioni più o meno centrali o locali, personaggi così equivoci, perché comunque chi va con le prostitute, chi va con i transessuali è comunque, secondo me, un personaggio perlomeno dubbio. Ecco, come, che credibilità agli occhi anche di un adulto, per esempio me, ho circa 40 anni, ma dei nostri figli che si apprestano a votare. Io che ho votato per la prima volta 20 anni fa, in questi giorni la considerazione che facevo è che rimpiango il pentapartito, rimpiango la stagione prima del 92, la stagione prima di Di Pietro. I Forlani, ma no, si stava meglio quando si stava peggio, non no. È questo. Io, cioè, il primo voto dato... Cos'è che rimpiange? La sobrietà, lei? No, aspetti, no. Io cosa rimpiange, dato, però, no, Enrico? Il primo voto l'ho dato con preferenza a De Lorenzo, si figuri come ho sbagliato a votare, non la persona, eppure la potevo scegliere. Il primo voto è quello che mi ha bruciato. Partito Liberale. No. Partito Liberale, De Lorenzo sembrava, no, ministro della sanità, e poi con poggiolini, divani pieni di soldi, sangue infetto e tutto. Quindi ho sbagliato subito, ho preso il dito nel piede. Rimpiango, sicuramente anche questi personaggi nel 92 avranno avuto le loro storie, le loro fresche, però era una politica diversa, c'era comunque un accaparramento che era diverso. Mi vengono in mente i Cirino Pomicino, i De Mica, tutta la Enrico, un attimo, non ho ancora capito cosa rimpiange lei. Rimpiango, ora sono tutti le stofanti, perlomeno prima, anche questo, sono tutti le stofanti. Enrico, non mi faccia del populismo così da quattro soldi. Il populismo, ma chi è che si spende per il paese? Abbiamo con noi Giampiero Gramaglia, buonasera. Buonasera. Cioè, Piero Gramaglia è stato fino a poco tempo fa direttore dell'agenzia ANSA. Allora, nell'ultimo libro pluricitato in questi giorni di Bruno Vespa, c'è qualcosa che la riguarda, lei sa benissimo di cosa sto parlando, perché tutto l'affare Berlusconi, escort, eccetera, è nato in realtà da un dispaccio battuto da un'agenzia ANSA battuta nella serata del 28 aprile del 2009, quando Gramaglia era direttore dell'ANSA, ed è un colloquio avuto tra Veronica Lario e lo stesso Gramaglia, ma prima ancora da uno scambio di mail tra un suo redattore, tra il capo del servizio politico dell'ANSA, se non sbaglio Gramaglia, e Veronica Lario nel pomeriggio. Ricordate tutti la frase significativa di quel lancio di agenzia, che era "ciarpame senza pudore", e da lì poi le altre considerazioni che molti di voi sanno di Veronica Lario. Qualcuno, credo oggi Repubblica, parla di un episodio che è contenuto nel libro di Vespa, ma c'è anche una critica nei suoi confronti, perché diciamo nella serata del 28 aprile lei avrebbe parlato con Berlusconi o col portavoce di Berlusconi più precisamente, e poi anche con Veronica Lario, censurando, così scrive Repubblica tra virgolette, non so nemmeno se usi le virgolette, anzi non le usa, in un pezzo di Dario Crestodino uscito oggi, censurando una frase molto pesante che Veronica avrebbe detto, avrebbe scritto nei confronti del marito. Ci ricostruisca un po' la vicenda, Gramaglia. Ma guarda, innanzitutto tengo a sottolineare che l'ANSA in quella circostanza pubblicò, e fu l'unica a pubblicare con un dispaccio che fu poi ripreso da tutta la stampa italiana e che doveva avere un suo rilievo, una sua importanza, se 8 mesi dopo siamo ancora qui a parlarne con tanto interesse e tanta attenzione, pubblicò un documento che era senz'altro importante, ed erano le dichiarazioni di Veronica Lario, le prime dichiarazioni così forti, così nette di Veronica Lario sulla vicenda che nasceva immediatamente dalle rivelazioni o dalle prime indicazioni della storia di Noemi Letizia, e poi ha avuto tutti gli sviluppi che abbiamo seguito sì, e poi in quel momento sulle possibili candidature di alcune ragazze alle elezioni europee, che sì. C'erano, in quel momento si discutevano le candidature alle europee. Dunque l'ANSA fu la prima e l'unica a pubblicare quella sera quelle dichiarazioni, le chiedemmo alla signora Lario, le ottenemmo, le pubblicammo, e senz'altro mi sembra che l'importanza di quelle dichiarazioni ma questo infatti non è in dubbio, fu per l'ANSA un colpo giornalistico importante, su questo non c'è minimo dubbio. Quelle dichiarazioni contenevano, e questo è esatto, come è esatta la ricostruzione del libro di Vespa? In certi passaggi ci sono dei momenti di cui io non sono a conoscenza, dei momenti che mi paiono un po' romanzati, ma sostanzialmente la ricostruzione è corretta, ed è esatto che nelle dichiarazioni della signora Lario, quali l'ANSA le ottenne, c'era un passaggio che a me parve e pare forte e soprattutto passibile di querela in caso di pubblicazione. Di questo di questa mia preoccupazione, io avvertì la signora, ci vuole un po' di tempo per ristabilire il contatto con la signora, ma io avvertì la signora, spiegai alla signora i motivi per cui consigliavo, suggerivo che quel passaggio non fosse pubblicato. La signora mi disse: direttore, faccia come lei ritiene meglio, non pose un punto sul mantenimento di quel passaggio. Io pubblicai, l'ANSA pubblicò il testo senza quel passaggio, e devo anche rilevare che in dichiarazioni successive, 2 giorni dopo, la signora Lario diede un'intervista importante, mi pare, alla Repubblica. La signora Lario non ha mai più ripreso quel passaggio che io avevo suggerito essere forse espresso in modo troppo forte. Ecco, qualcuno si chiede, può chiedersi se sia compito in questo caso di lei come direttore all'epoca dell'ANSA porsi una questione su un'espressione troppo forte o meno forte. Cioè lei di cosa aveva paura che fosse paura, insomma, di cosa qual era la sua preoccupazione in quel momento? La mia preoccupazione era di non esporre la mia la sua agenzia, la mia agenzia a una querela. Dunque la frase evidentemente era molto forte e riguardava, naturalmente non gliela chiedo perché è evidente che se non l'ha ritenuto di pubblicarla, certo, allora certo non la rivela adesso, su questo non c'è il minimo dubbio. Oggi Repubblica parla in maniera esplicita in un articolo, poi c'è anche una sua frase perché hanno sentito per fortuna anche lei, di censura, cioè la frase è questa: Gramaglia capisce che ha una bomba politica tra le mani e impiega quel tempo per censurare la moglie del premier e avvisare Berlusconi. Sono due cose, a Repubblica ho detto e Repubblica ha riportato che io non ritengo corretto il termine censura e le ho anche spiegato e spero di averlo spiegato agli ascoltatori perché non ritengo che di censura si sia trattato, nel senso che ho espresso a chi aveva fatto la dichiarazione delle mie perplessità su un passaggio e non ho tagliato quel passaggio in modo arbitrario. Come le rispose, mi scusi, apro una parentesi, come le rispose la signora Berlusconi in quel momento? Ma mi pare che la frase che la signora Berlusconi mi disse, non voglio adesso essere preciso al 100%, ma credo che la frase fosse: direttore, faccia come lei ritiene meglio, se lei ritiene che quella frase sia eccessiva, non la pubblichi senza quel passaggio. Quindi, e poi soprattutto mi sembra significativo il fatto che la signora non ha più ripreso quella frase in successive dichiarazioni. Lasciò a lei la decisione finale. Questo. Lasciò a me la decisione finale e lei se lei riteneva che quella frase fosse veramente importante l'avrebbe detta due giorni dopo quando fu intervistata da Repubblica, da altri media, invece non la insomma, lei si è arrabbiato quando Repubblica insomma ha parlato di censura, poi ripeto c'è stata anche la sua rettifica eccetera. Però mi permetto invece di distinguere il piano su cui, sia leggendo forse le anticipazioni e poi il testo del libro e magari anche leggendo Repubblica, ci può essere una certa confusione. Non c'è nessun rapporto tra l'espunzione della signora Veronica Lario e il fatto di aver avvertito il Presidente del Consiglio che c'era una dichiarazione importante sulla quale l'ANSA chiedeva la reazione, cioè è una cosa che abbiamo fatto col Presidente del Consiglio, ma in presenza di una vicenda di questo tipo avremmo fatto con chiunque, era chiamato direttamente in causa da una in una vicenda, da una dichiarazione importante, chiedevamo una reazione. Non c'è nessun rapporto, cioè non è che siccome Palazzo Chigi o il Presidente del Consiglio, che quella sera stava in Polonia, ha chiesto una cosa, noi abbiamo tagliato una frase. No, sono due cose totalmente diverse. Quella frase pareva a me, quel passaggio, perché pure di frase si trattava, pareva a me una frase forte e al limite o al di là dei limiti del rischio di querela e in tal senso. Cioè lei mi dice lei si preoccupò solamente del rischio di querela e dunque di un danno per la sua agenzia, non del contenuto in sé, dell'impatto politico. Ecco, mentre per quanto riguarda cercare di ottenere un eco alle dichiarazioni della signora, cercai di farlo direttamente con il Presidente del Consiglio, avvertendo che c'era questa dichiarazione, se lui voleva commentare. Il Presidente del Consiglio fu naturalmente colpito dalle dichiarazioni della signora. Lei ci parlò personalmente con Berlusconi? Parlai personalmente con lui, telefonicamente, perché appunto si trovava era a Varsavia. Sì. A Varsavia, alla fine della conversazione, preferì il Presidente del Consiglio non replicare direttamente, contestualmente alle dichiarazioni della moglie. Disse anche, secondo quello che scrive Vespa, che si trattava di una questione privata e dunque non capiva perché l'ANSA avrebbe dovuto diffondere una cosa del genere. Cioè lui, questo è vero o non è vero? È vero che l'ANSA riteneva e ritiene che quella fosse, nell'ambito magari anche di una vicenda privata, una notizia e che la pubblicò. E lui criticò il fatto che voi la pubblicavate o no? Io fatto è che noi l'abbiamo pubblicata. Può darsi che il Presidente del Consiglio avesse preferito che quella dichiarazione non ci fosse, questo mi sembra umanamente comprensibile, ma noi la pubblichiamo. È vero che c'era una domanda a cui invece, curiosa, questa è una cosa curiosa, cui Veronica Lario non rispose, questa è curioso, perché si parla sempre delle domande a Berlusconi, cui non risponde Berlusconi. Effettivamente voi che avete formulato tre domande, che qualcuno definisce generiche, ma in realtà sono tre domande. Infatti quel generico non l'ho ben capito, perché mi sembravano tre domande abbastanza specifiche. Sì, vabbè, ma ognuno ha sempre l'idea che le domande debbano essere l'inquisizione. O forse lui ha in mente, chi lo scrive ha in mente un'altra domanda che non è stata fatta e che lui avrebbe fatto, per carità. Sì, no, certo. La sua. Però tra queste tre domande ce n'è una a cui non ha risposto Veronica Lario, che riguarda il suo passato. Io ho l'impressione in realtà che lui che la signora Lario abbia accorpato le risposte, cioè noi non avemmo l'impressione che, come dire, fosse stata glissata una domanda. Che era sul suo passato di attrice, no? Ecco, l'organizzazione, sì, che l'organizzazione della risposta fosse così articolata da inglobare anche la risposta a quel concetto. Mm. Comunque, insomma, lei nel complesso respinge l'idea di essere stato censorio nei confronti di Veronica Lario, cioè quella frase l'ha tolta e non si pente di averla tolta. Io non sono pentito di aver tolto quella frase, naturalmente non escludo di aver, magari qualcuno mi dimostrerà che ho sbagliato e, per carità, non ho la verità, non ho verità da portare. Ma sarebbe stata così sconvolgente, diciamo, sarebbe stata molto pesante, molto pesante, molto sconvolgente, avrebbe cambiato la sostanza delle cose di quello che abbiamo saputo dopo, oppure no? Almeno questo assolutamente no, la sostanza è quella che, appunto, quello che ha pubblicato l'ANSA quella sera ha avuto un tale impatto che se ne è parlato se ne parlò moltissimo nei giorni dopo e se ne continua a parlare. Avrebbe solo inserito un elemento di come dire, gravame, ripeto, vicino se non al di là dei confini della querela, che non aggiungeva nulla alla sostanza e portava soltanto un elemento di sfregio o di sbrego alla dichiarazione. Però rivendico la scelta che feci quella sera, la confermo, e rivendico soprattutto il fatto che l'ANSA quella sera pubblicò, e fu l'unica a pubblicare, una storia che poi resse per parecchio tempo e dura che ancora, costato continuare. Grazie e buona serata. Titoli del TG2. L'OCSE conferma la ripresa in Europa, l'Italia al top dei paesi virtuosi. Per l'Istat cresce la fiducia degli italiani, Berlusconi superata la ricchezza della Gran Bretagna. Dopo l'incontro con Berlusconi, Casini conferma che alle regionali l'UDC andrà da solo, apertura sulla riforma della giustizia, ma dice va salvaguardato l'interesse dei cittadini. Spari in un palazzo per uffici di Orlando, almeno due morti, diversi feriti, ma il killer non è stato ancora trovato. Il massacro dei militari in Texas al grido di Allah è grande. E caccia l'uomo nel Varesotto per l'omicidio di una 82enne trovata sgozzata con le mani mozzate nella sua villetta. Viveva da sola, oscuro il movente. Il processo Calciopoli. Nell'udienza di oggi l'ex segretario della CAN racconta come venivano truccati i sorteggi. A volte bastava un colpo di tosse per far capire che l'arbitro scelto non andava bene. Va bene, andiamo a Padova. Federico. Buongiorno, dottor Cruciani. Buonasera, buonasera. Intanto volevo dire che sono contentissimo di aver preso la linea, perché è come per me vincere Elena Lotto. E poi, non esageri adesso, E poi, niente, volevo fargli i complimenti per la capacità con la quale ha di mettermi sempre in discussione sulle mie opinioni, a prescindere da molta gente che ce le ha super convinte. Io sono sempre lì, quando l'ascolto mi destabilizzo, ecco. Meno male, questo è importante. Per quanto non destabilizzarsi, riguarda, insomma, porsi degli interrogativi, insomma, in dei dubbi. In maniera positiva, ecco. E per quanto riguarda le droghe in Parlamento, ovviamente sono assolutamente schifato dall'idea di avere degli amministratori di governo diciamo così tra virgolette tossicodipendenti, però dall'altra parte sono a portare avanti questa opinione. Ma perché non legalizziamo le droghe leggere in modo da poter garantire un'entrata allo Stato tale che potrebbe abbattere benissimo buona parte del nostro debito pubblico e garantire, che ne so, qualche speranza in più per le nostre pensioni. Io ho 35 anni e continuo a versare contributi, ma Federico, adesso, per carità, tutto possiamo pensare, ma che i problemi del debito pubblico in Italia possano essere risolti dalla legalizzazione delle droghe, adesso non, anch'io in linea di massima sono d'accordo, ma non è sulla base di questo ragionamento. Ecco. Conoscendo anche le abitudini, voglio dire, di quanto è generalizzato l'uso di droghe leggere in Italia, e voglio dire, è un dato di fatto, voglio dire, ed è tutto, voglio dire, ad utile di traffici, voglio dire, fuori dalle accise, da quant'altro, voglio dire, ma non l'ho inventato io, Schwarzenegger in California ha fatto questo, insomma, quindi voglio dire, il suo insegnamento, secondo me, in questo caso potrebbe essere questo, cioè, andiamo un po' al sodo, voglio dire, proviamo anche a pensare in questo senso, che potrebbe essere solo che utile per lo Stato, insomma. Federico, la ringrazio. Riccardo dalla provincia di Lucca, buonasera. Buonasera, dottor Giuseppe Cruciani. Prego. Degno erede del dottor Saltamassi e di viva voce, complimenti. In 30 secondi la mia osservazione sul crocefisso. È una decisione ipocrita, mi destabilizza come europeista. I due che hanno fatto questo ricorso alla Corte Europea hanno detto, intervistati, che disturba loro per esempio il Natale, giustamente. Io sono per l'abolizione di tutte le feste, perché lo Stato deve essere laico, io sono cattolico comunque. E però mi viene un dubbio, la festa di Natale è stata scippata come festa commerciale, presa a prestito dal cristianesimo. La signora, fra le altre cose, è finlandese, e guarda caso hanno fatto un business su in Finlandia col Babbo Natale. La Coca-Cola nel 1934 ha inventato il famoso Babbo Natale. E i signori, Babbo Natale, però mi scusi, è una cosa laica, non è una cosa religiosa. Sì, Babbo Natale, sì, però il Natale è stato preso a prestito dal settore commerciale come occasione per sfruttare un evento religioso a fini commerciali. Sì. E a questi punti qui dico, ma e questi signori lo sanno che per esempio nella loro busta paga le feste religiose sono conteggiate come feste non soppresse? Di queste qui i signori non è che insomma stolgono il naso. Ricordiamoci anche, per quanto riguarda la tutela delle minoranze religiose e non, che qualche anno fa lo Stato italiano ha spostato la data delle elezioni perché coincideva con la Pasqua ebraica, capisce il discorso com'è? Quindi queste cose qui sanno molto, come ha detto giustamente lei, che la religione fa la guerra. E un'altra cosa, non so in quali tempi la Corte Europea abbia preso questa decisione sul crocefisso, altre cose vanno molto per le lunghe o non sono prese addirittura in considerazione, come per esempio la questione dell'Italia come testa di ponte sull'immigrazione nordafricana e non. No, a parte questo però, Riccardo, non credo che ci sia stata una particolare velocità nella decisione della Corte Europea di Giustizia, però da qualche parte oggi ho letto che la questione dei risarcimenti in realtà è fondata. Qualcuno diceva, non so dove, forse su un blog, cominciate a mandare i ricorsi perché almeno 3.000-4.000-5.000 euro si tirano fuori. Dunque la questione dei soldi da guadagnarci con questa storia del crocifisso tenetela ben presente. Emanuele da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera anche ai telespettatori. Io chiedo per esprimere la mia indignazione, l'indignazione di un cittadino italiano, riprendendo spunto da un articolo apparso sul Corriere della Sera un paio di giorni fa, ho appreso che c'è un deputato attore nel Parlamento italiano. Deputato attore, sì, Luca Barbareschi. Che fa Luca Barbareschi di nome. La sentiamo male, Emanuele, però. Mi sente? Sì, vada. Sì, dicevo, la questione credo si possa appunto dividere in due parti. Una è sostanziale, che questo signore ha collezionato il 52% di sedute parlamentari bucate, quindi di assenze, a fronte di uno stipendio di 23.000 euro al mese. Il secondo punto è, secondo me è un tema di pudore, nel senso che a valle di questo ha avuto ancora il coraggio, diciamo, di spiegare queste assenze con il fatto che non gli bastano questi soldi che prenderebbe da deputato. Ora il tema è che Barbareschi ha smentito di aver detto questa frase. C'è stato dopo quell'articolo di Stella, Barbareschi che cosa ha detto? Dispiace che un professionista come Gianantonio Stella faccia affidamento su una intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano, manipolata in modo evidente, in cui non ho mai dichiarato che lo stipendio di politico non mi basta, così come non mi aspettavo che si continuasse la prassi giornalistica di estrapolare alcune affermazioni dal contesto nel quale erano inserite. Stella è voluto tornare sull'argomento giustificando il suo articolo. Posso capire l'imbarazzo di Barbareschi, ma che mi rinfacci di aver riportato una frase uscita su un altro giornale che poi lui stesso ha ribadito in una sua telefonata a me martedì pomeriggio è alquanto curioso. La sua frase era questa: tolte tutte le spese, i collaboratori messi in regola e così via, non è che lo stipendio di parlamentare mi basti. Dunque in realtà lo ha detto e non l'ha detto, come al solito. Infatti, però io avendo letto anche la controrisposta di Stella, ho preso buono che comunque questa cosa che comunque ha espresso, diciamo, una sensazione sullo stipendio, no, di parlamentare, insomma, siccome devo pagare anche i collaboratori eccetera, insomma, questo stipendio non mi basta, insomma, non è sufficiente. Il tema che mi piacerebbe ancora dire è che sì, me la prendo molto e veramente mi auguro che in questo momento ci stia ascoltando. Perché il tema è questo, che in tutta sincerità nemmeno a me bastano i soldi che guadagno, pur lavorando 12 ore al giorno, tutti i giorni. E però la questione è che io non posso non presentarmi al mio lavoro, o almeno non posso su 22 giorni lavorativi fare un altro lavoro per 11. E invece questo signore qua può, perché è deputato. E probabilmente quando si è deputati non si fa un vero mestiere, non si deve, diciamo, rendere conto ai cittadini italiani che lo hanno votato per rappresentarli. No, ma Emanuele, io sono d'accordo con lei. Secondo me, quando uno entra in Parlamento, non può fare né le fiction in televisione, né le serie televisive, né gli spettacoli teatrali, non dovrebbe fare nulla di tutto questo. Io chiamavo appunto per esprimere la mia indignazione, sperando che veramente la maggioranza degli italiani la pensi come me, ma è una soddisfazione, diciamo, un po' sterile, nel senso che la verità è che si dovrebbe fare qualcosa di concreto per evitare queste situazioni. Cioè basterebbe una legge per cui quando uno viene eletto in Parlamento e supera un 10-15% di assenze, che credo che siano già più che sufficienti, viene espulso dal Parlamento. Va bene, Emanuele, adesso espulso dal Parlamento mi sembra un po' troppo, però certamente qualche cosa si potrebbe fare. Grazie. Fortunato, provincia di Catania. Buonasera. Buonasera, Crucene. Dica. Ce l'ho tanto con lei in questi giorni che sento la sua trasmissione, quando capita parlare in difesa dei nostri deputati, perché c'è il discorso che è ammesso per loro potersi fare qualche tirata di cocaina, eroina, quello che sia. No, ma io non ho detto nulla di tutto questo. Cruciani, è 2-3 giorni che lei va in difesa di questi qua, lasciamoli stare, loro possono farlo. No, ma io non ho detto questo, Fortunato. Ho detto che me ne frego se, come succede sicuramente, no, me ne frego finché non lo so. Finché non lo so. Che possiamo fare? Cosa gli facciamo a questa gente? Niente, lasciamoli così allora. Li lasciamo così che va bene, no? Noi abbiamo votato delle persone, abbiamo fiducia in queste persone, le lasciamo così perché loro possono. Poi se prendono un ragazzino per dire che lo beccano con una canna, questo ragazzino per la vergogna magari si suicida, questo è normale. Infatti, a sua veduta questo è normale, no? No, non è assolutamente così, Fortunato, perché io non sono d'accordo. Non sono d'accordo sulle leggi che puniscono i consumatori, quello che lei sta dicendo. Essendo io contrario a questo tipo di legislazione, mi posso permettere di dire che me ne frego se un deputato, un senatore ogni tanto fa uso di sostanze stupefacenti. Ogni tanto, non esiste. È come diceva quel ragazzo che ha chiamato poco prima di me, sì, che lui non si può permettere di mancare 12 giorni su 22 perché la ditta lo licenzia. Sì. E allora al Parlamento non si possono permettere di fare certe cose, se no vanno via. Loro sono là per rappresentarci, sì, a ma noi, il problema, tutto il mondo ci devono rappresentare onestamente, sì, non disonestamente, perché no, io lavoro. Fortunato, ho capito benissimo, però il problema non è generale, si drogano o non si drogano. È quello sul test antidroga, capito? Mi ha sentito, sì, o no? Lei è d'accordo con questo test? Evidentemente sì. Sì, certo sono d'accordo. Perché lo facciamo tutti? Perché se lei lo fa? Lei lo fa? Come? Lei lo fa? Se me lo chiedono, certo che lo faccio. Beh, ho capito, però non io lo chiedono perché non fa un lavoro tale per cui è necessario. Io faccio fare un lavoro di responsabilità, Cruciani. Però non, sì, no, evidentemente non fa un lavoro. Quando sulla strada mi fermano, faccio l'autista. Quando sulla strada mi fermano, mi vogliono fare l'alcol test, non gli dico no. Vabbè, certo, l'autista evidentemente lei ha degli obblighi anche da questo punto di vista, no? Perché loro non hanno obblighi, questi signori qua. Sì, non hanno obblighi, certo, come tutti hanno degli obblighi. Se lei ci riflette un attimo, quello che ha detto quel ragazzo poco fa è una cosa quasi che si rispecchia su tutti. Sentiamo parlare di tanti deputati che fanno assenze senza che si preoccupano di andare a difendere le nostre situazioni. Ma questo è un altro, allora, questo è un altro discorso, quello delle assenze. Non mettiamo le due cose insieme. Fortunato, grazie. Devo chiudere, mancano due minuti. Voglio sentire velocemente altri ascoltatori. Domenico da Milano. Sì, buonasera. Un flash, Domenico. Sì, no, solo perché siccome è stato attaccato Barbareschi, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Non voglio difendere Barbareschi in sé. Voglio magari allargare un momentino il problema, perché è vero che lui fa l'attore, ma quanti fanno gli avvocati, commercialisti, professionisti? Mi sembra che il problema è molto più grande in Parlamento. Mi sembra che il 52% di assenze confronto ad altre assenze sia un po' pochino. Io mi ricordo un Montesano al Parlamento Europeo che ci è andato forse due volte in una legislatura intera. Sì, ma non è che lo ordina il dottore di fare il deputato, Non è una prescrizione medica. Insomma. Guardiamo cosa fa nel sociale Barbareschi. Ma che c'entra il sociale? Che fa, ma no, nel sociale, nel senso, nella sua, dove è stato eletto, cosa fa, la fondazione che ha fatto per i bimbi africani. Insomma, mi sembra che non è che non faccia niente Barbareschi. Ma nessuno ha detto che non fa niente. È che fa un po' di assenze, che faccia un po' di assenze. Però se mettiamo in ordine le assenze, forse fare la parte alta della classifica, nella parte non è quella destra della classifica, solo quello. Va bene, grazie. Danilo da Roma, buonasera. Buonasera. Allora, intanto volevo complimentarmi perché comunque normalmente, diciamo, la nostra trasmissione è una delle poche fonti di informazione, diciamo, libera e di cui godiamo. Bene, vada al solo perché abbiamo poco tempo. Sì, vada al solo. Il problema è come mai che nemmeno lei alla fine ha voluto riportare il contenuto in merito all'intervento prima di Gramaglia. Cos'è che non ho riportato? Il contenuto della frase non la vuole dire Gramaglia. Cosa possiamo fare? Mica la possiamo obbligare. Non lo vuole dire Gramaglia, ma io penso in qualche modo si sarà saputa questa frase, oppure no? Come, scusi? Dico, questa frase in qualche modo si sarà saputa. Beh, no, non si è saputa evidentemente, perché l'Alario l'ha scritta, Gramaglia non l'ha pubblicata e poi non si è saputa. Qualcuno adesso mi manda dei messaggi. Un amico mio di Repubblica mi ha detto che la frase è questa e poi mi ha scritto una frase, ma insomma il punto non è fondamentale. Qualcuno ha parlato di censura, Gramaglia ha spiegato che di censura non si tratta, ma lui ha deciso, per tutelare l'agenzia, di non pubblicarla. Tutto qua. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei, abbiamo chiuso per stasera. Leo da Milano, Giovanni da Treviso, Alberto da provincia di Savona. Mi dispiace, è troppo tardi, ci sentiamo lunedì 18:30.